chi saremmo adesso se invece di Siddhartha ci fossimo messi a leggere la Magna Carta, se invece di Lapierre e di dipinti di Dalì ci fossimo affezionati alle sventure di Madame Bovary. Chi saremmo adesso se per un futuro certo ci fossimo iscritti a economia e commercio? Aspetteremmo ansiosi la pensione di papà per prendere poi il suo posto nella società. Adesso se evitassimo domande e prestassimo attenzione solo a gol che ha fatto Pander, se invece che attori e del futuro autori ci sentissimo a casa tra gli spettatori. Chi saremmo adesso se fossimo equilibrati? Saremmo anonimi indistinti, passeremmo inosservati per qualunquismo, mentalità stereotipate, vittime del consumismo e delle pizze surgelate. Certa, quelli non siamo noi, con una strada stretta, quelli non siamo noi, inferiati alla finestra, quelli non siamo noi, la porta è sempre aperta, questi sì siamo noi. Una cosa è certa, quelli non siamo noi, con una strada stretta, quelli non siamo noi. Yeah.